Io da tanti anni che pratico il ciclismo a livelli più o meno alti, direi mediamente bassi, nel senso che non ho mai avuto grandi ambizioni a livello di gare o competizioni, ma l'ho sempre fatto per me. Tuttavia ho sempre portato avanti questo sport per appunto una decina d'anni circa. Quest'anno mi è venuta la voglia di intraprendere un viaggio e ho deciso di appunto andare a Capo Nord ed è da circa un anno che mi preparo per essere pronta nel miglior modo a percorrere tanti chilometri. È da circa un anno e mezzo, due, che sono appassionata in particolare al mondo delle lunghe distanze. Ho percorso vari trail, anche in mountain bike, tra ad esempio il Tuscany Trail, Veneto Gravel e così via, per chi non so fosse del settore li conosce. Tuttavia non ho mai percorso così tanti chilometri come quelli che mi propongo di fare per il prossimo mese di agosto. Se non sbaglio sono 4200 che percorrerai in 26 giorni, quindi sono circa 160 al giorno. Esatto, una media di 160. Tuttavia, diciamo, la preparazione dell'ultimo anno è stata volta all'idea di averne nelle gambe almeno 200 al giorno, ecco, in modo tale da essere abbastanza tranquilli nel farne 150, ecco. La tua impresa è stata descritta anche come un'impresa ecosostenibile. Sì, esatto. Infatti ho studiato ingegneria energetica qua a Bologna innanzitutto e al momento sono dottoranda presso il Dipartimento di Fisica Tecnica. Anche per questo motivo sono vicina ai temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Per questo motivo ho pensato, ma perché non proporre un progetto che unisca la mia passione per la bici a anche un progetto per appunto sensibilizzare le persone che sono interessate su questi temi. E l'idea è nata anche un po' perché ad esempio ho fatto la tesi magistrale a Innsbruck, quindi ho qualche contatto già al di fuori dell'Università di Bologna. Mi è piaciuta l'idea di connettere le università, le principali università d'Europa in questo viaggio e creare un diario di viaggio in cui si racconta e si mostra cosa si fa anche negli altri centri. Come ci si equipaggia per un viaggio così lungo in bicicletta? Ma per questi tipi di viaggi diverse persone diciamo lo approcciano in diverso modo, ecco, quindi è personale. Il mio modo di approcciarmi ai viaggi in bici è quello di portare tutto quello che mi serve con me e quindi essere in grado di decidere quando e dove fermarmi ogni giorno, senza la necessità di dover arrivare a tutti i costi in un albergo o in una città definita. Quindi io mi porterò la mia tenda, il mio fornello, sarà un pochino più pesante, ma posso anche decidere di fermarmi proprio quando mi va, ecco. Questo è importante, secondo me, perché ti regala una libertà incredibile. Si pedala anche quando piove forte? Certo. La pioggia, ecco, non è una cosa che mi spaventa più di tanto, nel senso che, ad esempio, mi è successo l'anno scorso di prendere 4 giorni di acqua, ma veramente forte, in mountain bike, quindi con tanto fango, e non è stato un grosso problema. Se uno ha la giusta attrezzatura, non è un grosso problema la pioggia. Mi spaventa, ad esempio, di più il vento della Danimarca, che qui non ho potuto sperimentare, ecco. Tu prima dicevi, terrai un diario di viaggio, chi fosse interessato come può seguirti? Allora, sicuramente sulla pagina Facebook Cycling to Nord Cup, tu col 2, la riconoscete perché c'è il logo di una bici con il mappamondo di Capo Nord. Qui abbiamo pubblicato, perché partirò appunto con un mio amico che si chiama Pietro Albomonte, che non vorrei dimenticare, insomma. Abbiamo pubblicato tutti i video e le foto dei nostri allenamenti di qui a un anno fa, insomma, e pubblicheremo anche foto e video del viaggio.